and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oh, oggi non abbiamo niente da dire. È vero, forse tristemente la prima vero. Volta, Drago. No, no. Forse la prima volta. Quindi questo qua è uno di quei giorni, anche per il clima che insomma fa caldo, freddo, fa troppo caldo, troppa pioggia, fa tutto un po' così, sì. È meglio stare a letto. Vabbè, diciamo che semplicemente oggi bisognerebbe stare a letto con Tito. Tito, vieni qua. Tito, vieni qui. Tito mi lecca la faccia la mattina. Ho capito, però stiamo nel lettino. È una trasmissione e bisogna farla lo stesso. La trasmissione, anche se tutta l'Italia lentamente sta andando in vacanza, è un processo lento, inesorabile. E infatti così. Tutti gli altri programmi radiofonici sono tutti incentrati sulle vacanze. Beh, qui invece le vacanze restano, erano e restano un mistero. Perché anche i palinsesti della TV vanno in vacanza. Lo so, lo so. Io ho provato a guardare Porta a Porta e c'era una puntata registrata tipo un mese e mezzo fa, capito? È come una stella che brilla nel cielo ma è già morta, come la cosa dei, hai capito? Ho capito. Ma guarda che per chi non è in vacanza le giornate intere sono come repliche. Tutte le estati in città si assomigliano. Questo fa puoi il avere poeta. Dei deliziosi déjà vu nel trovare parcheggio dove avevi già trovato parcheggio un anno fa e poi non l'avevi mai più trovato. Invece l'altro giorno, caro mio, ho dovuto affrontare una situazione incresciosa perché era una giornata caldissima. Sì, vabbè. Città deserta, asfalto bollente che ti scioglie un po' sotto il passo. Eravamo io e Tito e stavamo passeggiando in via Imbonati a Milano. Andavamo verso sud, però noi eravamo in via Imbonati. Andate verso Maciachini. A un certo punto, Tito ha fatto la cacca sul marciapiede. Vabbè, aspetta un attimo. E allora io cosa ho fatto? Ho cominciato a fare la Macarena. Come la Macarena? Sì, no, mi tasto tutte le tasche per vedere se ho il fazzoletto, no? Facendomi ben vedere, se tu porti Tito in giro è perché hai un fazzoletto in tasca, ma nel caso in cui succede. Ovviamente non ce l'avevo, se no non facevo la Macarena, tiravo fuori. Invece la Macarena serve per far vedere a qualcuno che magari ti sta controllando. Oh, guarda il padrone del cane. Vediamo se raccoglie, perché sono tutti pronti. Aspetta, il fazzoletto. Aspetta, intanto speri che quello che sta guardando si volti e se Macarena, ne vada, no? La cacca la raccolgo, non la raccolgo tutta piena. E allora, cosa succede? Ho visto lì vicino per terra, non avendo il fazzoletto, ho visto un vecchio pacchetto di sigarette schiacciato. Ma era come? Bello schiacciato, vuoto, ma schiacciato, tipo una specie di cartina, di carta da gioco. E quindi hai raccolto, insomma, no, e poi aspetta, sei andato in, no, un raccolto, cestino, no? Perché non poteva andare col vassoietto, con la cacca fino al cestino, era lontano. Meglio che lasciarla allora, ho usato il pacchetto di sigarette come fosse una specie di catapulta. Sì, ma verso cioè, dove? Cioè, verso la strada. Ma no? Come verso la strada? La ma strada, siamo sul marciapiede, la cacca in strada. C'è il lavaggio strade che mi dà le multe perché lascio la macchina parcheggiata anche almeno che lavino la merda di cane. Oh, va bene. No, di cane, di Tito. Di Tito. Gli altri cani non mi interessano. Tito, non ti preoccupare, penso solo a te. Allora cosa ho fatto? Ho messo il pacchetto di sigarette a mo' di catapulta sotto lo stronzino di Tito. Ma vabbè. Ed è partito fortissimo verso la strada nel momento in cui passava una macchina. Ma scusa, non hai ho guardato. Sentito non so se gli è finito sul parabrezza, ho il sospetto che gli sia finito sui bocchettoni dell'aria. Ma come? Questo qui dopo tipo un chilometro avrà detto: ma cos'è sta puzza di... Non si è accorto di niente. Ma senti, ma non puoi fare una cosa. Siamo in radio. Hai detto tutta questa cosa sì, che in radio non si dice. Ecco, io vorrei scusarmi. Bravo. Se qualcuno degli ascoltatori è quel signore che guidava una macchina in via Imbonati, in via Imbonati, argento metallizzato, e si è trovato insomma così argento grigio metallizzato e si è trovato a un certo punto che c'era una puzza strana che gli veniva dai bocchettoni dell'aria. È perché sono stato io che non avevo il fazzoletto. E quindi adesso facciamo un'altra Macarena, dai. No. Guarda che magari ce li ho. Tasananira garira buona pena, arabarunga baragarabanena. Non c'è fazzoletta, non c'è fazzoletta. Non la fazzoletta, Macarena e fa rima con Ema. Ema! De fa rima con Ena. Ena! Where are you from? Sentite la canzone di Pippi Calzelunghe. Ecco, sono qui, Pippi Calzelunghe, così mi chiamo. Credo proprio a chi una non c'è né non c'è stata mai. Pippi, Pippi, Pippi, che non mi fa poi ridere. Dove mi troverete per quello che farò? Yes! Chiedo asilo! E ora, bambini, il sonnellino. Drago. Cosa c'è? Parla piano, eh. No, c'è gente che vuol dormire. Come si fa a dormire questo caldo? Ci sono pure le zanzare. Appunto. Cosa ti devo dire? Quando scatta l'ora del sonnellino, scatta l'ora del sonnellino, tutti muti. Non si riesce neanche a dormire a casa questi giorni. Figurati se riusciamo a dormire qui sulle brandine. Ma tu hai provato, caldo, tipo, mettere il cuscino nel freezer? Il cuscino nel freezer, se hai un freezer capiente puoi provare a mettere il cuscino lì, poi ti... Ma Marilyn metteva la sua sottoveste in frigo, poi se lo metteva quando la moglie in vacanza Metti un cuscino, però ti appoggi la testa lì, insomma, capito? Ma, insomma, meglio mettere il letto nel freezer. Ma ti compri un congelatore industriale oppure sai cosa? Potremmo... niente. No, non mi viene in mente niente, fa troppo caldo. Pure, senti, puoi appoggiare a terra un ventilatore che spara verso l'alto, ma non direttamente addosso a te. Magari col movimento destra-sinistra. Fa rumore. Io non ho mai provato, però forse è vero, fa rumore. Allora c'è la meditazione. Guarda, cioè, che l'ho sentito dire, la meditazione. Cioè, tu devi stare perfettamente immobile nel letto, occhi chiusi, e visualizzare un paesaggio invernale, magari di montagna, con la neve, tutto quanto. Cos'è, il mondo di Pushige, anche più qua? Più o meno, se sei bravo dopo un po' dovresti anche sentirti fresco, addormentarti. No, la fresco, ci sono 32 gradi a casa mia, è un bel pensare alla montagna. Tu ci hai mai provato? La meditazione? No. E allora dimmi come fai tu, no? Io tengo l'aria condizionata a palla. Ma io non ho l'aria condizionata a casa. Allora, metti il cuscino nel freezer, ti infili i tappi nelle orecchie, accendi il ventilatore. Sì, così non lo senti. Esatto, giusto, poi riempi il letto di quelle cose blu che si mettono nel freezer, poi si mettono nelle borse termiche. Bello, sì. Tutto insieme, vedrai che alla fine ce la fai anche tu a dormire, dai. Però magari mi compro un condizionatore. Si entra in punta di piedi nel mondo più bello che c'è. Anche se vedi non credi al mondo di Pushige. Hai capito, K? È bellissimo. Eh sì, ci sono i siberini con le ali che volano tutti intorno a noi e ci rinfrescano l'ambiente. I siberini sono quelle cose. Non dirlo, non dirlo. Mettono, che cosa sono i siberini? Scrivete a chiedoasilo@radio24.it e vincerete un siberino. Ma un siberino mi ha cagato in testa. Ma non cagano i siberini. Ma come no? Volano, eccetera, quindi cagano anche. Si entra in punta di piedi nel mondo più bello che c'è. Anche se vedi non credi al mondo di Pushige. Dire che fai così, Cap. Non è ancora finito, è ancora lunga. Sì, ma come? Ma non è ancora lunga. Ma non succede niente nel mondo d'estate. Beh, sì, ammazziamo qualcuno, almeno abbiamo qualcosa da parlare. A parte il fatto che stanno fallendo tutti, dalla California agli Stati Uniti, almeno, alla Grecia, all'Irlanda, borse a picco, eccetera, per il resto non succede niente, hai ragione tu. Borse indisfatta. Però voglio dire, anche tutto sto allarme per il fallimento degli stati, ma non è un'esagerazione. Cioè, io mi ricordo l'Argentina. L'Argentina è fallita, cioè ha dichiarato serenamente che non avrebbe mai pagato i suoi debiti, ha ricominciato da capo e adesso è uno dei paesi che cresce di più nel Sud America. Quindi, ma bisogna far così. Sì, in Italia ad esempio succederebbe così, senti, congelerebbero i conti correnti di tutti a sorpresa. Beh, no? Congelano il mio, guarda, anche il mio. Mi fanno solo un favore. E quindi nessuno può spostare somme di denaro di qui e di là. Poi gli euro ridiventerebbero lire e a quel punto riscongelerebbero i conti e si tornerebbe alla lira, amici come prima. Addio Europa, pazienza, è stato bello crederci per un po' e buonanotte. Ma è così semplice, così? Ma più o meno sì, non è così difficile da capire. In fondo, chi ci rimette se falliamo? Chi ci rimette? I nostri creditori. Chi sono i nostri creditori? Chi sono? Banche straniere. Le banche straniere. Sì, le banche straniere prestano una barca di soldi all'Italia, però fanno anche una polizza per garantirsi. La società assicuratrice che ha fatto la polizza alla banca si assicura a sua volta. È una catena di gente che si assicura l'un l'altro che tutto andrà bene. L'unico che non può assicurare un bel niente è il debitore, cioè nel nostro esempio l'Italia. Però è anche l'unico che non ci perde proprio niente a fallire. l'unico che ci perderà sarà l'ultimo anello della catena assicurativa, che dovrà risarcire il penultimo, che dovrà risarcire il terzultimo, eccetera. Vabbè, sì. Però alla fine la cosa più semplice da fare sarà dimenticarsi tutto e buonanotte. No, ma come? Eh sì, no, è un brutto sogno, amici. Cioè, è solo un brutto sogno. Sapete i 108 miliardi di euro che abbiamo dato la Grecia, l'Italia, Portogallo, eccetera? Torneranno mai più indietro. Come se non fossero mai esistiti. Un brutto sogno, amici. È solo un brutto sogno. Brutti sogni in diretta. E ora, bambini, e tutti a casa. Vabbè, anche oggi abbiamo finito, non avevo niente da dire. Mi ha fatto questi 10 minuti, tranquillo. Sai, lo sai che le cicale, dopo un po' che frizzano, che fridono, si dice, friniscono, ferniscono, farniscono, frinire. Friniscono. Sì. Dopo un po' scoppiano. Ma come scoppiano? Ti giuro, se tu senti, la senti che a un certo punto aumenta la velocità, poi fa fisso, poi pof! Esplode. Esplode. Ma che brutto. Ma come che brutto? Ma poverina.